Analogamente, Françoise stimava Saint-Luc più di Morel e riteneva che, malgrado tutti i tiri che il ragazzo, Morel, gli aveva giocato, il marchese non l'avrebbe mai lasciato nei guai, perché era un uomo che aveva troppo cuore, a meno che non si fosse trovato lui stesso in chissà quali difficoltà. Robert insisteva perché io rimanessi a Tansonville, e una volta, sebbene non cercasse visibilmente più di farmi piacere, si lasciò sfuggire che la mia venuta era stata per sua moglie una gioia tale che era rimasta, a quanto gli aveva detto, ebbra di gioia per tutta una sera in cui si era sentita tanto triste che io, arrivando all'improvviso, l'avevo miracolosamente salvata dalla disperazione, forse, aggiunse Robert, da qualcosa di peggio. Mi chiedeva che tentassi di persuaderla del suo amore, dicendomi che la donna che pure amava, l'amava meno di lei, e presto l'avrebbe lasciata. Eppure, aggiungeva, con una tale fatuità e un tale bisogno di confidenza da farmi credere, a tratti, che il nome di Charlie sarebbe uscito, suo malgrado, come il numero d'una lotteria, avevo di che essere orgoglioso. Questa donna, che mi dà tante prove di tenerezza e che sto per sacrificare a Gilbert, non s'era mai interessata a un uomo, si credeva incapace di innamorarsi. Io sono il primo. Si era rifiutata a tutti, e io lo sapevo, al punto che quando ho ricevuto la lettera adorabile in cui mi diceva di non poter essere felice se non con me, non riuscivo a crederci. Ci sarebbe, è chiaro, di che perdere la testa se il pensiero di vedere in lacrime quella povera, cara Gilbert non mi fosse intollerabile. Non trovi che abbia qualcosa di Rachel? Mi chiedeva. E in effetti ero rimasto colpito da una vaga somiglianza, che era adesso possibile, a rigore, scorgere fra le due donne. Forse dipendeva da una reale affinità di alcuni tratti, dovuti per esempio all'origine ebraica, peraltro così poco marcata in Gilbert, affinità per la quale Robert, quando la sua famiglia aveva voluto che si sposasse, si era sentito maggiormente attratto, a parità di patrimoni, verso Gilbert, ma anche dal fatto che Gilbert, avendo trovato delle fotografie di Rachel di cui aveva ignorato persino il nome, cercava di imitare, per piacere a Robert, certe abitudini care all'attrice, per esempio quella ad avere sempre dei nastri rossi fra i capelli e uno di velluto nero al braccio, e si tingeva i capelli per sembrare bruna, rendendosi conto poi che i dispiaceri le davano una brutta cera. Cercava di porvi rimedio. A volte lo faceva senza misura. Un giorno che Robert doveva venire a Tansonville per passarvi 24 ore, rimasi stupefatto, vedendola arrivare a tavola così stranamente diversa, non solo da come era stata un tempo, ma da come era di solito, che ne fui stupefatto, come se avessi avuto di fronte a me un'attrice, una specie di Teodora. Mi accorgevo di guardarla, mio malgrado, troppo fissamente, curioso di sapere cosa vi fosse in lei di tanto mutato. La mia curiosità, d'altronde, fu presto soddisfatta quando Gilbert si soffiò il naso e, nonostante tutte le precauzioni con cui lo fece. Da tutti i colori che rimasero sul fazzoletto, facendone una ricca tavolozza, vidi che era completamente dipinta. Per questo aveva quella bocca insanguinata che si sforzava di rendere sorridente e che credeva le stesse bene, mentre l'avvicinarsi dell'ora del treno, senza che Gilbert sapesse se il marito sarebbe davvero arrivato o avrebbe invece mandato uno di quei telegrammi di cui il signor di Germain aveva spiritosamente fissato il modello, impossibile venire, segue bugia, faceva impallidire le sue guance sotto il sudore viola del trucco e le cerchiava gli occhi. «Ah, mi diceva Robert con un tono volutamente tenero che tanto contrastava con la tenerezza spontanea ad una volta. Una voce da alcolizzato e modulazioni da attore. La felicità di Gilbert. Non c'è niente, vedi, che non le sacrificherei. Lei ha fatto tanto per me. Non puoi sapere. E la cosa più spiacevole in tutto questo era ancora l'amor proprio, perché essere amato da Gilbert lo lusingava, e non osando dire che era Charlie che amava, dava tuttavia dell'amore che attribuiva al violinista nei suoi confronti certi dettagli che lui stesso sapeva esagerati, se non inventati, di sana pianta, lui, al quale Charlie chiedeva ogni giorno sempre più denaro. Ed era affidandomi Gilbert che ripartiva per Parigi. Per anticipare un po', visto che sono ancora a Tansonville, ebbi del resto l'occasione di vederlo una volta e da lontano, in società, dove la sua conversazione, malgrado tutto viva e affascinante, mi permetteva di ritrovare il passato. Fui colpito da quanto cambiasse. Somigliava sempre di più a sua madre. Il tratto di sveltezza altera che aveva preso da lei e che lei era perfetto e lui, grazie alla più raffinata delle educazioni, diventava eccessivo, si irrigidiva. L'acutezza penetrante dello sguardo, tipica dei Germain, gli dava l'aria di ispezionare tutti i luoghi per cui passava, ma in modo quasi inconscio, come per un'abitudine o una particolarità animale. Anche immobile, il colore che apparteneva a lui più che a qualsiasi altro Germain, gli conferiva, per non essere che l'oro d'una giornata di sole appena solidificato, una sorta di così strano piumaggio. Faceva di lui una specie così rara, così preziosa, che si sarebbe voluto possederlo per una collezione ornitologica. Ma quando, in più, questa luce, mutata in uccello, si metteva in movimento, in azione, e vedevo per esempio Robert de Saint-Louis arrivare a un ricevimento dove già mi trovavo, aveva un modo di rialzare la testa così setosamente e fieramente di razza sotto il pennacchio d'oro dei capelli un po' spiumati, movimenti del collo talmente più sciolti, più fieri e più civettuoli di quelli propri agli umani, che davanti alla curiosità e all'ammirazione per metà mondana, per metà zoologica che egli ispirava, c'era da chiedersi se ci si trovasse nel Faubourg Saint-Germain o al Jardin des Plantes, e se si stesse guardando un gran signore attraversare un salotto o un uccello passeggiare nella sua gabbia. D'altra parte, tutto quel ritorno all'eleganza volatile dei Germain, dal becco aguzzo, dagli occhi affilati, era utilizzato, adesso, dal suo nuovo vizio, che se ne serviva per darsi un contegno. Più se ne serviva, più sembrava ciò che Balzac chiama una zia. Bastava un po' di immaginazione perché il suo modo di cinguettare si prestasse a questa interpretazione non meno delle sue piume. Si metteva a dire frasi che credeva grand siècle, imitando in questo i modi dei Germain. Ma un indefinibile non nulla faceva sì che diventassero al tempo stesso i modi del signor di Charlieu. «Ti lascio un istante», mi disse quella sera mentre Madame de Marsan era poco lontana da noi. «Vado a fare un filo di corte a mia madre». L'amore di cui mi parlava di continuo non era soltanto, del resto, quello per Charlie, sebbene fosse l'unico che contava per lui. Qualunque sia il genere d'amori che un uomo coltiva, ci si sbaglia sempre sul numero delle sue relazioni, perché si interpretano erroneamente come relazioni delle amicizie, il che costituisce un errore per addizione. ma anche perché si crede che una relazione conosciuta ne escluda un'altra, il che costituisce un errore d'altro genere. Due persone si possono dire: «Sì, l'amante di X, la conosco», pronunciare due nomi diversi e non sbagliarsi né l'una né l'altra. È raro che una donna che amiamo soddisfi tutti i nostri bisogni e la inganniamo con una che non amiamo. Quanto al genere d'amori che Saint-Leu aveva ereditato da Charlieu, un marito che vi sia incline fa, di solito, la felicità di sua moglie. È una regola generale, rispetto alla quale i German trovavano il modo di fare eccezione, perché quelli fra loro che avevano questo gusto volevano far credere d'avere, al contrario, quello delle donne. Si mettevano pubblicamente con questa o con quella e facevano disperare le loro mogli. I Courvoisier si comportavano con più giudizio. Il giovane visconte di Courvoisier si credeva l'unico sulla terra, fin dall'origine del mondo, ad essere tentato da qualcuno del suo sesso. Pensando che quell'inclinazione gli venisse dal diavolo, lottò per contrastarla. Sposò una donna incantevole, le fece fare dei bambini. Poi un cugino gli insegnò che era un'inclinazione piuttosto diffusa e spinse la sua bontà fino a condurlo in luoghi dove poteva soddisfarla. Il signor di Courvoisier amò tanto di più sua moglie, raddoppiò il proprio zelo prolifico e i due erano citati come la coppia più felice di Parigi. Non si diceva altrettanto dei Saint-Leu, perché Robert, anziché accontentarsi dell'inversione, faceva morire di gelosia la moglie, mantenendo senza alcun piacere delle amanti. Può darsi che Morel, essendo nerissimo, fosse necessario a Saint-Leu come l'ombra al raggio di sole. Si può benissimo immaginare in quella famiglia così antica un gran signore biondo, oro, intelligente, dotato d'ogni prestigio, capace di celare nel più profondo un gusto segreto da tutti ignorato per i negri. Robert, d'altronde, non lasciava mai che la conversazione toccasse il genere d'amori che era il suo. Se io vi accennavo, non saprei, rispondeva con un distacco così profondo che si lasciava sfuggire il monocolo. Non ho la minima idea di queste cose. Se vuoi informazioni in proposito, ti consiglio, mio caro, di rivolgerti altrove. Io sono un soldato, punto e basta. Tanto mi lasciano indifferente queste faccende, altrettanto mi appassiona la guerra balcanica. Una volta ti interessava l'etimologia delle battaglie. Allora ti dicevo che si sarebbero riviste, sia pure nelle condizioni più diverse, le battaglie tipiche. Per esempio il grande saggio di aggiramento sull'Ala, la battaglia di Ulm. Ebbene, saranno particolari quanto vuoi queste guerre balcaniche, ma l'Uleburgaz è ancora Ulm, l'aggiramento sull'Ala. Ecco gli argomenti di cui puoi parlare con me. Del genere di cose a cui alludevi, ne so quanto di sanscrito. Questi argomenti che Robert disprezzava tanto, Gilbert, una volta che lui era ripartito, li affrontava invece volentieri con me, non in relazione al marito, visto che ignorava o fingeva di ignorare tutto, ma vi si soffermava volentieri in quanto concernevano gli altri. Sia che vi vedesse una sorta di scusa indiretta per Robert, sia che questi, diviso come suo zio fra un silenzio severo sull'argomento e un bisogno di sfogo e di maldicenza, l'avesse largamente istruita. Fra tutti, Charlieu non veniva risparmiato. Probabilmente Robert, pur non parlando di Charlie a Gilbert, quando era con lei non poteva trattenersi dal ripeterle, in una forma o nell'altra, quanto veniva a sapere dal violinista, e costui perseguitava col suo odio l'ex benefattore. Queste conversazioni, che Gilbert prediligeva, mi permisero di chiederle se, in un genere parallelo, Albertine, che avevo sentito nominare per la prima volta proprio da lei, quando erano compagni di scuola, avesse quei gusti. Gilbert non poté darmi l'informazione richiesta. D'altronde, la cosa aveva smesso da tempo di interessarmi. Ma continuavo a occuparmene meccanicamente, come un vecchio che, perduta la memoria, chieda di tanto in tanto notizie del figlio che ha perduto.